America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ma chi se ne frega di quello che dice Zuccone su Radio Radio? Abbia pazienza. Avete sentito? Questo è l'amico Giuseppe Cruciani che ha assunto un atteggiamento nei confronti del collega Zucconi così un po' provocatorio. E io però invece quello che dice Vittorio Zucconi non solo lo apprezzo, ma mi interessa e lo abbiamo ai microfoni di America 24. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Mario, ma tu ci provi sempre. L'ultima volta che ci parlammo per il tuo programma cercassi di farmi bisticciare con Giuliano Ferrara, adesso con Cruciani e la sua zanzara. Ma insomma, questa è radio, come ma dicono in America, non è chirurgia, è radio. È radio, ma io Vittorio, al contrario, voglio che facciate pace qui ad America 24, l'America, la terra della libertà, della comprensione, delle sì. opportunità. Allora ti faccio sentire Vittorio, perché ho chiesto a Giuseppe, dico, ma Giuseppe, ma perché ce l'avevi con Vittorio? E senti cosa mi ha detto. Non ho detto questo, io ho detto, rispondendo ad un ascoltatore, poi l'ho spiegato anche in radio, mi dispiace perché io conosco Vittorio, io ho semplicemente detto, un ascoltatore mi stava parlando di una trasmissione di Zucconi in cui parlava di certe cose, e io gli ho risposto, ma che ce ne frega di quello che dice Vittorio Zucconi, nel senso che non era l'argomento della discussione, non era l'argomento della serata, non mi ricordo qual era, ma tutto era dare un attacco personale a Vittorio Zucconi. Ecco, hai sentito Vittorio, allora pace fatta, anche tu dici è stato un malinteso? Io ho inteso benissimo, ma chiaramente sono quelle cose che si dicono, noi facciamo la radio in diretta, lui la fa per Radio 24, io la faccio per Radio Capital, si dicono queste cose, ma anche noi giornalisti oramai abbiamo imparato dai politici, diciamo sempre, ma no, la frase è presa fuori contesto, quindi nel contesto hai fatto da pacere, abbiamo fatto la pace. Bene, bene, un grande successo di America 24. Vittorio, ecco, Vittorio, ti chiamo perché? Perché sempre parlando d'America, noi abbiamo intervistato qualche tempo fa un camionista che si chiama Facchinetti, il quale ci ha scritto una lettera, dice, ma ci puoi aiutare col visto? Dice, perché io vorrei venire a fare il camionista in America. E ha aggiunto, voglio dare un futuro migliore ai miei figli. E poi ci ha spiegato perché. Questa cosa mi ha molto colpito, devo dire, ha molto colpito anche i nostri ascoltatori. E vorrei sapere intanto qual è la tua reazione al fatto che un camionista voglia venire in America. A fare il camionista, aggiungo. Essendo io uno che quando viaggia su e giù per l'autostrada 95 che divide te a New York da me a Washington, e ogni volta resto incantato dalla bellezza di questi giganteschi tir americani, 18 ruote come si chiamano, perché hanno 18 ruote, non è molto originale, e capisco che è come per un pilota, dice, vorrei pilotare un jumbo piuttosto che un aeroplanino monomotore, per un giornalista lavorare al New York Times piuttosto che all'Urlo di Peretola, conoscendo poi le strade italiane, certamente c'è questo sogno di guidare qui, questa è la terra dei camionisti, hanno uno dei sindacati, come sai, più potenti, anche più duri d'America, i Teamsters sono molto potenti, molto forti, e qui è una vocazione per molti ed ha questo senso di essere molto americani quando si guida un camion, è forse l'essenza del famoso on the road, essere per strada, trasportare beni, essere i padroni di queste grandi carovane, perché i tir qui sono gli equivalenti dei famosi carri coperti che andavano nel West, quindi c'è molto mito americano, mito vero naturalmente, nei camion americani. Ecco, e infatti senti che cosa ha detto. E tra l'altro questo mio amico qua aveva un suo amico che faceva il camionista e abbiamo fatto da Los Angeles fino a Green River, nello stato dello Utah. Che esperienza è stata questa di guidare da Los Angeles a Green River nello Utah? Bellissima, non avrei mai pensato. Mi sono sentito dentro e ossia, ti dà questa... almeno a me ha dato questa impressione di sentirmi libero, di sentirmi libero. Vittorio, vedi, tu sei un grande giornalista e il nostro camionista Facchinetti ha condiviso con te queste sensazioni perché dice che guidare in una strada americana poi è un grande senso di libertà. Ma parliamo dell'America. Ti colpisce che al di là del camion un italiano voglia dare un futuro migliore ai suoi figli e dunque voglia venire qui facendo il camionista, non il cervello in fuga che va all'università? Camionista negli Stati Uniti, se gli va bene, siccome è praticamente un imprenditore privato, un libero professionista, un freelance, di solito loro possiedono la motrice e poi di volta in volta loro affittano i propri servizi, agganciano il container dietro e lo portano dove vuoi. Quindi si possono fare molti soldi, si può anche naturalmente fallire, perché questa è la regola dell'America. Io credo che questa persona, come tanti altri che vogliono venire in America, non come ricercatori o medici o persone con un posto, abbia questa sensazione che in Italia oramai i giochi sono fatti, le carte del mazzo sono state distribuite, chi le ha, chi non le ha, non le ha, casta o mica casta, non facciamo adesso del qualunquismo, della demagogia, però che insomma non c'è futuro. Qui invece, con tutti i rischi che ha il futuro, perché il futuro non esiste, qui te la puoi ancora giocare, te la puoi giocare da inventore, quello che inventa la nuova bevanda al sapore di cocco e diventa miliardario, e puoi avere grande successo anche come camionista, facendoti naturalmente un grande mazzo, perché qui le distanze ovviamente sono quelle che sono. Se vai da Los Angeles a New York, insomma, è quasi come andare da Salerno a Reggio Calabria, però più divertente. Senti Vittorio, però tu hai fatto una scelta americana in qualche modo, perché ormai vivi qui da molti anni, vogliamo dire da quanti? Sì, lo possiamo dire, sono 30 anni. Ecco, vivi qui da 30 anni, i tuoi figli sono stabilmente in America, credo sposati con degli americani, la tua vita è in America, quindi in qualche modo tu hai fatto una scelta americana. Certe cose non sono casuali, e quindi che cos'è che ti ha motivato a stare in America alla fine? Due ragioni rapidissime. La prima, una professionale. Io qui vivo come se facessi il giornalista dal mondo, perché l'America rimane la metafora di tutto. Qui si passa da un presidente che si mette nei guai con una ragazzotta con la quale fa delle porcheriole, a un presidente che lancia una spedizione militare e invade un paese come l'Iraq, un paese ricchissimo che rischia di andare in bancarotta. Quindi qui c'è tutto. Tutto del mondo è qua. E la seconda, come hai detto tu Mario, è per i figli. Alla fine, giorno dopo giorno, mi sono reso conto che, non essendo io abbastanza potente, né possedendo grandi aziende o grandi fortune da lasciare loro in eredità, avevano, come il camionista, anche senza il camion, avevano più probabilità di farcela, di farsi una vita loro, senza ricorrere al papà o alla mamma, e per i loro figli, per i miei nipotini. Poi, quando naturalmente nascono i nipoti, è come ribattere il chiodo dall'altra parte del legno, dopo poi non ti muovi più perché guardi in faccia il tuo futuro, che è un futuro americano, senza che io abbia mai rinnegato l'Italia. Io come te ci torno spessissimo, l'adoro, i miei affetti, il focolare, Ilaria e i penati, però questo è un paese che ogni giorno mi offre qualcosa di nuovo. Siccome io sono uno che si annoia molto facilmente, sapere che alla mattina mi sveglio e non so cosa accadrà, mentre in Italia già so tutto, cioè non accadrà niente, beh, questo mi tiene giovane. Ecco, ma pensi che si possa fare qualcosa in Italia? Lo diciamo, lo ripetiamo da 20 anni, da quanto ci conosciamo, da 30 anni, e poi non succede niente. Però qui si cominciano a porre dei problemi seri, perché le dinamiche sono cambiate, lo vediamo da come i mercati si muovono, lo vediamo dai problemi che ci sono con l'euro, insomma qui la situazione è un po' più seria di quanto non lo fosse in passato. Come ne usciamo per evitare che il camionista voglia venire in America? Ma io incoraggerei comunque il camionista, perché un camion di meno sulle autostrade italiane non può che far bene a tutti, a lui, agli altri camionisti e agli automobilisti. Questa è una mezza battuta, ma in realtà il traffico italiano è troppo soffocato dal famoso trasporto su gomma, come si dice, con tutto il rispetto per i camionisti ovviamente. E tu hai detto la situazione è seria. Io sono un pochino più grande di te, grande è un eufemismo nel senso dell'età, e ricordo di aver vissuto la mia prima grande crisi nel 71, quella che portò alla fine del rapporto dollaro-oro e poi alla nascita dei serpenti europei. E ogni volta la crisi sembrava gravissima, non era abbastanza grave perché le cose cambiassero. L'Italia è un paese che sa reagire ma non agire, e noi siamo un paese che sa giocare in contropiede, non sa attaccare. Io amo molto il calcio in Italia della nazionale è la perfetta metafora del carattere italiano. Noi giochiamo sempre in contropiede, quando dobbiamo attaccare non siamo capaci. E allora al camionista gli diciamo di venire in America e giocare in contropiede a sua volta? No, qui gioca in attacco, e in contropiede in Italia non funziona, anche perché non riesci a fare le ripartenze sul traffico italiano, sei imbottigliato. anche questa è una garbata metafora per dire quello che dicevamo prima, sei incastrato nella posizione in cui sei, a 10 chilometri dal casello di Remevignano sei bloccato lì, qui invece devi attaccare, se giochi in difesa hai sicuramente perduto, qui devi attaccare, devi affrontare il vuoto, lo spazio, i grandi cieli del West, le grandi autostrade, rischiare sapendo che non ci sono reti di sicurezza, se caschi, caschi fino in fondo e ti fai male, se invece riesci a volare puoi volare molto in alto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ancora guai per Rupert Murdoch, il batterista dei Queen, Roger Taylor, ha appena ripubblicato la canzone contro il tycoon americano e più precisamente questa canzone che si chiama The News Corp, intitolata Dear Mr. Murdoch, di Roger Taylor in The News, Dear Mr. Murdoch. Dear Mr. Murdoch, what have you done with your news of the screws and your sore away son? You sharpen our hatred, you've blunted our minds. We're drowning in nipples and bingo and sex crimes. How many times must they poke and they pry? Must they twist and lie? Just to add to the grime, they even screwed up the times, left to kick their ass goodbye. Oh, wouldn't I? Dear Mr. Murdoch, you play hard to see, but with your bare-ass cheek, you should be on page three. Dear Mr. Murdoch, really the pits. Bad news is good business, you're the king of the tits. They stain all they touch, they're real woman haters, but we're on the trail. They go straight for the lowest common denominators. How could they fail? Go straight to jail, no bail. Dear Mr. Murdoch, you're a powerful man. You control half our media, whose lifeblood is scam. Dear Mr. Murdoch, not so amused, just line up the people whose lives they've abused. From getting so hard to tell if you're a Yank or Pong. Dear Mr. Murdoch, you're really the pits. Bad news is good business, you're the king of the tits. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!